ti vuole, lo lasci andare. Cosa c'è che ti tocca e non puoi toccare? Cosa c'è che ti frena e c'è da saltare? Togliamoci la voglia stanotte, ascoltiamo questo istante. E se non ci pensi sarà più forte, se qualcosa resta, resta qua. Togliamoci la voglia stanotte, comunque mi perdonerei. A me capita con te, a me capita con te. Cosa c'è che comincia e tu devi andare? Cosa c'è che è in discesa se vuoi salire? Cosa c'è di sbagliato a sentirsi giusti? Tipo adesso io e te e fuori tutti. Cosa c'è di importante? Tienilo a mente. Tipo io e te, il resto non ci fotte niente. Togliamoci la voglia stanotte, ascoltiamo questo istante. E se non ci pensi sarà più forte, se qualcosa resta, resta qua. Togliamoci la voglia stanotte, comunque mi perdonerei. A me capita con te, a me capita con te. Non facciamo finta che non sia normale, quando senti tutto, tutto quanto vale. A me capita con te, a me capita con te. Non facciamo finta, lo sai che ci fa male, quando ci sei dentro, poi dove vuoi andare? A me capita con te, a me capita con te. Fare l'alba come se fosse la prima volta che lo faccio. Ridere di gusto, avere tatto. A me capita con te di non sentire la sveglia, di avere fretta, di capire che la casa è qualcuno che ti aspetta. A me capita con te di non avere fame, di avere sete, di non sapere più che fare. E ora togliamoci la voglia, togliamoci i vestiti. Ci vuole un gran coraggio ad essere felici. La voglia stanotte, ascoltiamo questo istante. E se non ci pensi sarà più forte, se qualcosa resta, resta qua. Togliamoci la voglia stanotte, comunque mi perdonerei. A me capita con te, a me capita con te. Bruciamo forti questa notte, affari sopra un promontorio. Il mare bussa sugli scogli, il vento taglia rasoio. A me capita con te di non vedere le stelle cadere ma nascere, di arrivare ad amare le chiacchiere, di capire un po' di gossip, non pensare ai presupposti, di averti a tutti i costi. A me capita con te, a me capita con te, a me capita con te.